non è una storia già vecchia d'un tempo che fu. Forse è accaduta tra il nonno e la nonna Mariù. Questa è successa all'autore da un anno sì e no, e nella strofa seconda ve la racconterò. Per un filino d'erba mi son incatenato. Ed or che son legato, non so slegarmi più. Però di tutto ciò non son pentito. La vita è tanto bella insieme a te. Per un filino d'erba non so lasciarti più. Quella gita in campagna scordar mai potrò. Sotto la scarpa un fil d'erba attaccato restò. Stavo perciò scivolando, ma lei m'afferrò e nel tenermi ben stretto un bel bacin scoccò. Dolce amor, che siam sposati, avremo un pupo bello come te. Per un filino d'erba, uè, saremo felici in tre. Saremo felici in tre.